Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. DDL Lavoro, Napolitano non firma e rinvia il provvedimento alle Camere. Resa dei conti nel PD, 49 senatori a Bersani, basta con queste liturgie stantie. La disoccupazione giovanile schizza a febbraio al 28,8%, per il quinto mese consecutivo il numero dei senza lavoro supera la soglia dei 2 milioni. Burka, oggi la decisione in Belgio, la Francia dice no al divieto di consentire di indossarlo alle donne islamiche. È morto Nicola Arigliano, una vita fra il jazz e il digestivo Antonetto. Buongiorno dalla redazione di GR24 da Maria Piera Ceci. La politica è in primo piano, mentre due schieramenti sono alle prese con il dopo voto, arriva la bocciatura di Napolitano al DDL Lavoro. In diretta Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Stop dunque del Quirinale al cosiddetto disegno di legge sul lavoro. Sotto accusa, secondo il Presidente della Repubblica Napolitano, l'estrema eterogeneità della legge e in particolare la complessità di alcune disposizioni che disciplinano temi di indubbia delicatezza sul piano sociale. A norma dell'articolo 74 della Costituzione, il Capo dello Stato chiede dunque una nuova deliberazione affinché, viene spiegato in una nota, gli apprezzabili intenti riformatori del provvedimento possano realizzarsi nel quadro di precise garanzie e di un più chiaro e definito equilibrio tra legislazione, contrattazione collettiva e contratto individuale. Una prima replica da parte dell'esecutivo potrebbe arrivare già alle 15 nel question time. Sempre qui alla Camera interverrà il ministro Sacconi. Sul fronte politico intanto la coalizione di governo vive un altro giorno di euforia. Dopo il successo nelle regionali, la maggioranza guarda la seconda metà della legislatura ad un piano di riforme. Sentiamo su questo bocchino del Popolo della Libertà. Serve un patto di maggioranza per fare le riforme. Silvio Berlusconi ha detto che i 3 anni a disposizione vanno utilizzati per modificare la Costituzione, metter mano alla riforma del fisco e anche a quella della giustizia, e ci deve essere una convergenza di tutta la maggioranza per rendere produttivo questa seconda metà della legislatura. Il federalismo è la priorità, avverte però la Lega. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. Resa dei conti intanto nel centro-sinistra. Andrea Viali. Sì, è così, Piera, soprattutto nel Partito Democratico a tenere banco è oggi il confronto interno dopo il risultato non certo brillante alle regionali. Non si può parlare di vittoria, ma il partito comunque è tenuto e c'è stata anche un'inversione di tendenza rispetto alle europee, ha commentato ieri il segretario democratico Bersani. La sua analisi però non sembra aver convinto molto le correnti interne, soprattutto quelle che fanno capo a Veltroni e a Franceschini, che non contestano apertamente la leadership di Bersani, ma richiedono comunque un cambio di rotta, in particolare sul tema delle alleanze. Le liturgie del PD sono stantie, hanno scritto invece oggi in una lettera indirizzata allo stesso Bersani una cinquantina di senatori democratici, che chiedono un po' a tutto il partito uno sforzo di rinnovamento maggiore, questo naturalmente per recuperare consensi. A te la linea. Grazie ad Andrea Viali. E le sconfitte del centro-sinistra nel Lazio e in Piemonte erano prevedibili. Così Matteo Renzi, sindaco di Firenze, esponente della nuova generazione del PD, che rimprovera il centro-sinistra di aver fatto le primarie solo in Puglia. Lo ha intervistato Maria Luisa Pezzali. Quando si fanno le verifiche bisogna anche avere il coraggio di dire che con altri candidati saremmo andati meglio, quindi io non credo che si possa tutte le volte che ci sono le elezioni fare la gara di dire abbiamo vinto, abbiamo sempre vinto tutti, non è così. Qui si sa innanzitutto chi ha perso. Abbiamo perso noi in Lazio senza che il centrodestra avesse presentato la lista, e sinceramente è stato un capolavoro riuscire a perdere senza che gli altri avessero messo perfino la lista a Roma, e abbiamo perso in Piemonte. Nell'uno e nell'altro caso, con candidati diversi, io sono convinto avremmo vinto, avremmo sicuramente vinto con Chiapparino in Piemonte, e probabilmente se Labolino si fosse occupato un pochino più del Lazio, un pochino meno di raccogliere le firme per la sua candidatura come capo dei radicali in Lombardia, sarebbe andata meglio. Perché secondo lei non si è scelto ad esempio Chiapparino in Piemonte? Perché ci è mancato un po' di coraggio, e meno male che in Puglia abbiamo fatto le primarie, perché sennò avremmo cancellato anche l'esperienza di Vendola. Credo che il PD debba accettare la logica di fare sempre le primarie, sempre, e credo anche che ora il momento sia buono per ripartire, i risultati non sono granché, però nei comuni si dimostra che dove si mette un candidato sindaco che la gente apprezza, vince il nostro candidato sindaco. Perché? Perché è credibile, perché la gente lo apprezza. Prendiamone atto, perché per il futuro si riesca ad essere un pochino più legati al rapporto con le persone, con i cittadini, e un pochino meno legati agli assetti tra partiti, agli equilibri, ai caminetti interni, un po' più di volontà di guardare fuori dalle stanze dei partiti. Coraggio, e vorrei dire la nuova generazione deve essere anche in prima fila. Un messaggio forte, lo ha ricordato lei, arriva dalla Puglia con la vittoria di Nicky Vendola. Che cosa ne devono trarre i leader? Beh, che quando si immagina di fare delle operazioni a tavolino dalle stanze romane non funzionano. Penso che tutti noi dobbiamo prendere atto che l'esperienza pugliese è esattamente l'opposto di ciò che è accaduto, per esempio, in Lazio o in Piemonte. Votare Grillo è un atto di autodistruzione, ha detto Bersani. Questo abbiamo chiesto a voi ascoltatori nel nostro sondaggio di oggi. L'82% si è detto però contrario a questa analisi. In Puglia, fra i bocciati, c'è anche l'ex deputato UDC Cosimo Mele. Si era ripresentato con la lista Lo Sud in appoggio alla candidata dei centristi Adriana Poli Bortone, tentando il ritorno sulla scena politica dopo lo scandalo che lo aveva coinvolto circa 2 anni e mezzo fa. Un festino, ricorderete, a base di cocaina e di una escort finita in ospedale. L'ha intervistato Maria Chiara Grandis. Beh sì, era un'occasione, sai, poi misurarsi è sempre un fatto positivo, no? Credo di aver preso dei consensi sufficienti da farmi capire che ho tanti amici ancora che credono nella mia persona, sono soddisfatto. Che voto si dà sulla campagna elettorale? Ma su quella generale è appena sufficiente, sul personale il voto è ottimo. Al centrodestra non ce l'ha fatta e si parla di dimissioni per il ministro Fitto. Non succederà nulla, è una farsa. Fitto credo che abbia sbagliato assolutamente il candidato. Si diceva in qualche modo che il caso Frisullo l'avrebbe avvantaggiata. A chi? A me? Ma no. Che idea si è fatto di questo caso? Ma nulla, cioè mi dispiace perché non dovrebbero accadere queste cose. Riguardo ai fatti di qualche anno fa, la Poli Bortone aveva detto che se sua moglie l'aveva perdonata può farlo anche l'UDC. Ma il dono del perdono è, credo, un dono che la Chiesa ha. Com'è cambiata la sua vita da quel giorno? La mia vita politica è stata stravolta. Con la sua famiglia i rapporti sono tranquilli. È chiaro che questa vicenda ha, diciamo, influito. E adesso che farà? Ma niente, a livello politico vanno fatte delle riflessioni, farò la vita di sempre, cercando, insomma, di vivere più serenamente, tranquilli, fermo restando che la serenità è una parola difficile, per quanto mi riguarda, è chiaro. E torneremo a parlare del voto in Italia, incontro luce in onda subito dopo questo notiziario. Siamo invece alla pagina economica, a cominciare dall'analisi di Moody's. Con un percorso virtuoso e duraturo di calo del debito pubblico, l'Italia potrebbe ambire ad un rialzo del rating, dice Moody's, secondo cui i contribuenti europei si trovano davanti ad anni di rigore fiscale, ma rispetto a molti partner l'Italia preoccupa meno perché ha una lunga esperienza nella gestione del debito. Ed ora è dati Istat di giornata con Simone Spezia, a cominciare da quelli brutti sulla disoccupazione. Simone? Sì, buongiorno Piero, buongiorno agli ascoltatori. Sì, brutti in particolare quelli sulla disoccupazione giovanile, perché se il tasso di disoccupazione nazionale si colloca all'8,5%, la variazione congiunturale è sostanzialmente nulla, anche se in crescita di 1,2 punti percentuali rispetto a febbraio dell'anno scorso, ma era prevedibile, la disoccupazione giovanile invece cresce anche su base mensile. Tra i 15 e i 24 anni si attesta a quota 28,2%, con una crescita di 0,8 punti percentuali rispetto a gennaio e di 4 punti percentuali rispetto a febbraio 2009, quindi una crescita di molto superiore a quella della disoccupazione generale. Da segnalare oggi sempre dall'Istat i dati che sono arrivati sul fronte dell'inflazione. Si registra un incremento dell'1,4% dei prezzi al consumo, al massimo da febbraio 2009, quando l'inflazione si attestò all'1,6%, la stima è preliminare, però già si evidenziano crescite a due cifre per il settore dei trasporti e anche per i carburanti, GPL compreso. A voi. Grazie Simone, ottimismo sul turismo di Pasqua, ci colleghiamo con Paola Nania. Sì, buongiorno. Il 2009 è stato indubbiamente un anno difficilissimo per il turismo dall'estero verso l'Italia. Il 2010 invece dovrebbe essere l'anno della ripresa, l'anno del miglioramento. Lo ha garantito l'ENIT, che è l'ente nazionale per il turismo italiano. Oggi ha presentato i dati sui flussi previsti proprio per il periodo di Pasqua. Sentiamo subito il presidente dell'ENIT, Matteo Marzotto. Siamo già usciti in un certo qual modo dalla crisi, è una nuova fase di tutti i mercati, di tutti i comparti, anche della fase anche del mercato del turismo. Quindi potremmo arrivare a 40 milioni di turisti stranieri in Italia per il 2010. Io spero che li potremo anche superare. Per quanto riguarda la Pasqua, i maggiori flussi si avranno nelle città turistiche, ma anche nei piccoli centri per una vacanza alternativa. Un'ultima notazione, la crisi sembra alle spalle, comunque ci sono segnali di miglioramento, ma ha cambiato le abitudini dei turisti stranieri in Italia. Preferiscono adesso vacanze più brevi e attente al portafoglio. Per ora è tutto, a voi la linea. E grazie anche a Paola Nania. Ieri, come sapete, il crollo alla Domus Aurea, uno dei gioielli romani, ma come stanno gli altri gioielli, appunto? I crolli sono il mio incubo, dice l'archeologo Andrea Carandini, grande esperto di Roma e presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali. Sentiamolo al microfono di Adriana Fracchia. Io da una parte sono preoccupato e dall'altro sono rassicurato. Sono preoccupato per i decenni e decenni di stasi, di incuria e di abbandono e di degrado che ci sono alle spalle. Sono piuttosto ottimista perché so che al Palatino i lavori sono cominciati, alla Domus Aurea stanno per cominciare e quindi diciamo che c'è una stagione nuova. Naturalmente questa stagione, per svilupparsi e per consolidarsi, ha bisogno di un minimo di tempo. Nel frattempo i crolli possono avvenire sul Palatino, possono avvenire sull'Esquilino, possono avvenire sulle mura aureliane, possono avvenire sugli acquedotti, insomma sono strutture molto antiche, sono dei colossi, ma sono dei colossi che ormai hanno i piedi d'argilla. Quindi ci vorrebbe una grande campagna di prevenzione, cioè di monitoraggio e di prevenzione, per cui con piccoli interventi noi evitiamo i grandi disastri, perché i piccoli interventi di prevenzione costano poco, invece i grandi disastri, i crolli, poi per rimediare, a parte il fatto che non si rimedia, perché una cosa poi distrutta resta distrutta, ma insomma per rimediare poi servono molti più denari. Quindi c'è un'emergenza a Roma che giustifica, a mio avviso, l'uso di commissari. Penso che in questo caso si tratti di un allarme vero, dimostrato dai fatti, e quindi a questo punto non c'è che continuare nell'attuale indirizzo di messa in sicurezza dei punti più critici, per poi entrare nel monitoraggio più normale, nella manutenzione più normale. 20 chilometri al giorno, 10 all'andata, 10 al ritorno. Nei suoi 60 anni di carriera ha portato il jazz nella televisione italiana. È morto questa notte Nicola Arigliano, il cantante, 87 anni, era diventato famosissimo con Canzonissima e Carosello. Ricorderete tutti la pubblicità del digestivo Antonetto, almeno se avete almeno la mia età, portando al successo brani come Sentimentale, Carina, 20 chilometri al giorno. Nel 2005 tornò a Sanremo vincendo il premio della critica. Nella prima parte di GR24 abbiamo parlato del DDL Lavoro e della bocciatura da parte di Napolitano, che non ha firmato e ha rinviato il provvedimento alle Camere, ed è resa dei conti nel Partito Democratico. 49 senatori hanno scritto a Bersani: basta, dicono, con queste liturgie stantie. La disoccupazione giovanile schizza a febbraio al 28,8%, per il quinto mese consecutivo il numero dei senza lavoro supera la soglia dei 2 milioni. E poi abbiamo parlato, avete sentito la voce di Nicola Arigliano, morto questa notte, una vita la sua fra il jazz e il digestivo Antonetto. E ripartiamo parlando invece della RU486, la pillola abortiva che da domani sarà ufficialmente disponibile in Italia. Sono 10 finora gli ospedali italiani che ne hanno fatto richiesta, ma la battaglia non è chiusa. Se ci sono centri, infatti, come la clinica Mangiagalli a Milano, che stanno organizzando posti letto ad hoc, come previsto dal protocollo del Ministero, c'è già chi non nasconde che le donne in ospedale non resteranno. Così accade a Pisa, dove la RU486 era già in uso nella sperimentazione italiana e dove Massimo Sreb Bott, responsabile di ostetrice e ginecologia dell'ASL 5 di Pontedera, racconta così al microfono di Anna Migliorati. I primi quantitativi saranno distribuiti nei prossimi giorni. E poi? Cosa ne... E poi ieri mi è arrivata in originale sul tavolino la comunicazione del Ministero che impone il ricovero ordinario. E io sono uno di quelli che ha scritto a favore del ricovero ordinario, purché questo consentisse l'utilizzo immediato del farmaco. Poi di fatto sappiamo benissimo che l'ospedale non è il posto idoneo per queste donne, perché in ospedale noi normalmente teniamo le donne che hanno partorito, le donne che sono state operate di tumore, ma le donne sono molto intelligenti, sono molto informate, firmano la cartella e se ne vanno. Il protocollo prevede così, ma le donne in ospedale non ci saranno. La realtà è questa, io 500 circa donne sono rimaste ricoverate in tre. Per queste donne che firmano, voi prevedete controlli poi a breve? Assolutamente, noi siamo per percorsi assistiti che potrebbero in condizioni diverse essere elaborati alla luce del sole. In questo caso organizziamo riferimenti di sostegno umano all'esperienza e di controllo clinico laddove, in quei rari casi in cui c'è qualche problemino. E proprio in questi minuti sulle agenzie la notizia che il neo governatore del Piemonte Roberto Cota ha parlato proprio della pillola abortiva RU486. Sono per la difesa della vita e penso che la pillola debba essere somministrata quantomeno in regime di ricovero. Dunque proprio la questione che stavamo discutendo in questo momento. E a chi gli chiedeva se le pillole che la Bresso aveva invece ordinato, che sono già arrivate in Piemonte, rimarranno nei magazzini, ha risposto sì, per quanto potrò fare io, sì, rimarranno dunque nei magazzini. Cambiamo argomento, i terroristi islamici la citano spesso per giustificare gli attacchi contro il mondo globalizzato, ora però un convegno di studiosi musulmani ha sconfessato una famosa fatwa, ossia un editto religioso decretato 7 secoli fa. Il documento, secondo gli studiosi, non può essere usato in un mondo globalizzato che rispetta la fede e i diritti civili. Non è più applicabile nell'attuale contesto. In Francia e Belgio si discute sull'opportunità di vietare di indossare il burqa, il velo integrale. Dopo lo stop della Francia, oggi è il Belgio a discutere il divieto del burqa nei luoghi pubblici. Così, dopo che il Consiglio di Stato francese ha respinto il progetto di legge che voleva vietare il velo islamico integrale, il Belgio potrebbe diventare il primo paese europeo ad approvare una legge in tal senso. Il testo, presentato dai liberali, ha il sostegno dei cristiano-democratici e dei socialisti. E se una commissione della Camera oggi darà il via libera, la legge sarà poi votata in sessione plenaria il prossimo 22 aprile. In sostanza, si intende modificare il codice penale per imporre un'ammenda oppure 7 giorni di carcere a chi si presenterà in uno spazio pubblico con il volto coperto del tutto o in parte. La legge in discussione prevede però delle eccezioni quali il carnevale oppure altre manifestazioni autorizzate dai comuni. Igor Fiatti, GR24, Il Sole 24 Ore, Parigi. 12 morti e decine di feriti in 2 attacchi suicidi in Dagestan, la Repubblica Russa Caucasica del Nord più turbolenta insieme all'Inguscezia. La maggior parte delle vittime sono poliziotti. Il premier Vladimir Putin non ha escluso che possa trattarsi dello stesso gruppo responsabile del duplice attacco alla metropolitana di Mosca. 12 anni, pensate, 12 anni nella selva colombiana. È stato rilasciato l'ostaggio più vecchio del mondo. Era stato sequestrato il 21 dicembre del 97. Allora il sergente Pablo Emilio Moncayo aveva solo 19 anni. 12 anni trascorsi nelle mani dei guerriglieri delle FARC, prigioniero nella selva colombiana. 12 anni durante i quali a chiedere con ogni mezzo la liberazione del figlio era stato soprattutto il padre, Gustavo, conosciuto come il marciatore portatore della pace. Per chiedere il rilascio di Pablo Emilio, infatti, ha camminato a piedi lungo le strade del suo paese, ma anche all'estero, percorrendo 3.000 chilometri. Ieri l'operazione che ha portato alla liberazione di Moncayo, che insieme ad un altro militare colombiano, sequestrato lo stesso giorno, era considerato l'ostaggio più vecchio del mondo. A gestirla la senatrice Piedad Córdoba e i rappresentanti di Croce Rossa Internazionale e Chiesa Cattolica Colombiana. Le FARC hanno già fatto sapere che non ci saranno più però rilasci unilaterali. Intanto Moncayo è in buone condizioni e ha già potuto riabbracciare la famiglia, tra cui una sorellina di 5 anni mai conosciuta. Katia Caramelli, GR24, Il Sole 24 Ore. E torniamo in Italia con il nuovo colpo contro la camorra. Polizia, carabinieri e guardia di finanza hanno infatti messo a segno un blitz che ha portato all'arresto di 14 affiliati di imprenditori legati al clan Casalesi Zagaria, accusati di associazione di stampo mafioso ed estorsione. Tra gli arrestati ci sono anche il fratello del boss 52enne superlatitante Michele Zagaria e il padre. Carmine Zagaria, di 42 anni, fratello del boss, è infatti stato arrestato a Sassari. L'uomo stava per imbarcarsi su una nave diretta a Olbia. A Casa Pesenna, nel Casertano, invece, i poliziotti hanno sorpreso nel sonno Nicola Zagaria, di 82 anni, padre del capoclan. Nel corso dell'operazione sono stati anche individuati e smantellati i bunker utilizzati dagli affiliati per sostenere proprio la latitanza di Michele Zagaria. Contestualmente, i militari della Guardia di Finanza, del Comando Provinciale di Napoli e dello Scico hanno eseguito il sequestro di beni per circa 30 milioni di euro, acquisiti con gli illeciti profitti conseguiti dal clan. Paolo Picone, GR24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Ed ora la vicenda che sta facendo molto discutere. Parliamo infatti di un permesso per l'omicida della banda della Uno Bianca. 5 ore e mezzo di permesso per partecipare alla Via Crucis di Sarmeola di Rubano, piccolo comune in provincia di Padova, a poca distanza dal carcere in cui si trova per scontare l'ergastolo. Poi Marino Chipinti, 45 anni, ex poliziotto della squadra mobile di Bologna, componente della banda della Uno Bianca, tornerà nel carcere di Padova, in cui si trova da 16 anni. L'associazione dei familiari delle vittime del gruppo di criminali guidati dai fratelli Savi, tramite la sua presidente Rosanna Zecchi, però non ci sta e ribadisce l'impossibilità del perdono per chi ha ucciso e non ha denunciato, potendolo fare ed evitando altri morti innocenti. Impossibilità di perdono anche da parte del padre di Carlo Beccari, la guardia giurata uccisa proprio da Occhi Pinti il 19 febbraio 1988 durante l'assalto a un furgone a Casalecchio di Reno, nel bolognese. Deborah Dirani, GR24, Il Sole 24 Ore, Bologna. Prosegue la querelle della Valle Fiorentina. Diego della Valle non è più il patron della Fiorentina. Lui, che è stato l'artefice principale della rinascita della società Gigliata, ha deciso di fare un passo indietro. A settembre, analoga mossa da parte del fratello Andrea. Lasciò la presidenza a Mario Cognini, ma non si è mai allontanato dalla Fiorentina e forse ora, proprio già oggi, potrebbe tornare in sella alla società. Quindi si tratterebbe soltanto di una staffetta tra i fratelli della Valle. La città però si chiede il perché di questo polverone. Dai comunicati e dalle notizie ufficiali sembra che si sia trattato di uno scontro fra titani, anzi fra prime donne che rivendicavano il ruolo di protagoniste della Valle e Prandelli, che alla fine ha ribadito di voler rimanere a Firenze fino alla scadenza del contratto. Poi l'anno prossimo vedremo, ma sembra destinato ad altre panchine. Ma dietro i riflettori la realtà potrebbe essere un'altra e tutto ruoterebbe attorno al progetto della città della Viola. I della Valle sono imprenditori, per investire sulla Fiorentina ora hanno bisogno di soldi freschi che potrebbero arrivare da tutti i servizi collegati alla cittadella, progettata sull'area di Castello, che però in seguito è stata sequestrata dalla procura perché coinvolta in appaltopoli. I della Valle non lo dicono apertamente, ma vogliono risposte dalla politica e da quel partito dei rossiconi che dovrebbe per davvero fare un passo indietro. Ubaldo Cianciulli, GR24, Il Sole 24 Ore, Firenze. State ascoltando è la splendida chitarra di Giovanni Baglioni, intervistato questa mattina da Oscar Giannino, un cognome suo piuttosto noto. Penso di aver goduto di una certa curiosità che riguardava ciò che facessi proprio in virtù del mio cognome. Penso che anche questa curiosità alle volte avesse delle aspettative che dal mio punto di vista sono sbagliate, perché io mi aspetto da me stesso di fare bene ciò che ho intenzione di fare. E questa è davvero una buona notizia. Il nuovo libro dell'autrice di Twilight, Stephanie Meyer, sarà pubblicato anche gratuitamente su internet come regalo alla lealtà dei fan. Lo scrive oggi il Sun. La scrittrice ha spiegato che i suoi lettori hanno comprato tonnellate di suoi libri, quindi ora è lei a voler dare qualcosa in cambio a loro. The Short Second Life of Britanner sarà nelle librerie dal 5 giugno, ma potrà essere letto gratis in tutto il mondo dal 7 giugno al 5 luglio. Non si potrà però stampare, il file sarà infatti in sola lettura. E siamo al calcio, stasera Inter CSK Mosca per l'andata dei quarti di Champions League. Ancora una volta il protagonista nel bene e nel male sarà lui, il tecnico nerazzurro José Mourinho. Coi media italiani parla ormai col contagocce e mai in campionato dopo la maxi squalifica rimediata in seguito alla sfida con la Sampdoria. Ma con le TV inglesi José Mourinho ritrova la parola. Sarà perché l'Inghilterra e Londra sono rimaste nel cuore dell'ex tecnico del Chelsea. Sarà anche perché il rapporto col calcio nostrano non va poi così bene, come spiega lo stesso Special One a Sky Sports. I'm very happy at Inter. I'm not happy in Italian football because I don't like it and they don't like me. All'Inter sono molto felice, ma non sono felice nel calcio italiano. Perché loro non mi piacciono, io non piaccio a loro. È semplice. Questo è il Mourinho pensiero. E a proposito di futuro, stasera c'è un CSK a Mosca da affrontare sulla strada che porta alla Champions. La Coppa, ancor più dello Scudetto, è il grande miraggio del popolo interista che il portoghese vuole trasformare in realtà. Poi a fine stagione sarà tempo di bilanci, con l'amore per la Premier League, ma anche le sirene spagnole targate Real, che potrebbero portare lo Special One lontano da Milano. Dario Ricci, GR24, Il Sole 24 Ore. E questo notiziario è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, la parte tecnica Carmelo Lauricella, prossimo GR24 alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.